Dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Però è incredibile come cosa, vero? 60.000 persone che ti guardano, applaudono, gridano il tuo nome. Fa paura. Tu avevi paura? Sì. Ma quando mai? Paura che potesse finire. Tutta la sera, no. Cari ascoltatori, ben ritrovati, per quelli distratti, per quelli che non sanno che noi eravamo già in onda oggi pomeriggio. Un saluto a tutti voi. Questo è Dai e Vai, non è solo calcio, e quindi lo capirete subito dalle nostre varie interviste. Luca Gattuso. Eccoci qua, intanto iniziamo a dire che Milan Catania, visto che non è solo calcio, dai e vai. Sì. Milan Catania 1-1. Ecco, così. Sì. No, grazie. Vabbè. No, prego. No, figurati. Prego. Vabbè. Vuoi che parli di pallacanestro? Vuoi che parli di pallavolo? Vuoi che parli di cricket? No, cricket com'è andato a finire poi? Ma stanno ancora giocando, sì, per dei mesi giocheranno ancora. Intanto però... Oggi pomeriggio giocavamo con l'Oman alle Bermuda per riuscire a rimanere nel terzo girone dei mondiali di cricket. Senti, ma il nostro portierone del Catania, Frison. Bene, ha appena fatto un miracolo su un calcio d'angolo, colpo di testa proprio da non in mezzo all'area, ma sul primo palo, e lui è riuscito a tuffarsi e a deviare la palla. Una parata molto difficile di Frison. Diciamo bene, molto bene Frison. Ecco, no, beh, ma soprattutto perché noi abbiamo questo attaccamento a Frison, perché non si spiega da più delle parti, e soprattutto non ha un senso, soprattutto avere un attaccamento a Frison fino a quanti anni avrà? 12 anni? No, Frison no, ne ha di 16, più. Quanti ne avrà? Insomma, più 20, meno, dai, 20. Qualcosina di più, diciamo che è dell'88, quindi direi che è un buon 25. Senta, anni. Allora, con te non parlo, ne parlo soltanto con Luca Cancellara, che è collegamento con noi da San Siro. Pronto, Luca? Facile dire che sono in collegamento da San Siro quando state lì al coperto, certo, se mi permettete, faccio subito un appello personale. Sì. Posso? No. Vai. Allora, se qualcuno passasse davanti all'ingresso 8 di San Siro e avesse un paio di calzini asciutti in più, ecco, io sono quello. Scusa, con il Luca, con l'ombrello nero. Sì, ma non è che puoi lamentarti tutte le volte che fai un collegamento, cioè, datti una regolata, insomma. Volevo condividere con voi un dettaglio. Certo. I piedi bagnati, insomma. Luca, ma soprattutto, secondo te, quanta gente va in giro in una domenica di maggio verso le 22:10 nella zona di San Siro con un paio di pedalini, come dicono a Roma, in più, secondo te, così statisticamente, ecco? No, diciamo che io ho molta fiducia negli abitanti di Milano, del quartiere San Siro. Ah, ok, perfetto. Quindi era un annuncio così speranzoso. Vuoi proprio che ti portino qualcosa da mangiare anche, poi, non so. No, a mangiare sono a posto, mi bastano un paio di calzini. Ecco, tu sei collocato lì dove, di preciso? Allora, sono esattamente davanti all'ingresso 8, e diciamo che le prestazioni delle ultime giornate del Milan, insieme a questo tempo non ottimo, diciamo, non hanno facilitato l'arrivo di tifosi milanisti allo stadio. In particolare, qui davanti non sta uscendo nessuno. E beh, sono tutti dentro al coperto. Allora, scusa, vai al 7? Sì. Vai al 6? Vai all'uscita 9? Fare? No, allora, al 7 e al 9 sono completamente chiuse. Qui all'8 mi stanno facendo compagnia due steward, anche loro con tanto di frattino giallo fosforescente con i ombrelli. Steward, tu come ti chiami? Perdonami se ti disturbi in orario di lavoro. Di lavoro. Marco. Ecco, Marco, quanta gente c'è allo stadio stasera? Secondo te, a spalle? Più o meno sono 30.000 persone. Butta via. No, ma io l'ho fatta, dobbiamo dire che ce n'è meno, sai, col brutto tempo. Marco, quante persone ci sono a San Siro questa sera? Poche. Ma saranno pochissime, saranno 10.000. Non è vero, cioè, adesso diamo delle informazioni. 11.000 spettatori. Ma non è vero, dai, lo vediamo noi, le abbiamo già contate, tra l'altro noi vediamo. Marco, che è lo steward ufficiale dell'ingresso 8, mi ha detto che ci sono 11.000. Pensa che quelle 30.000 persone, se avessero deciso tutte di votare lo stesso candidato presidente della Repubblica, avrebbero potuto avere del sostegno parlamentare, ma molto più di... Tra l'altro. Ecco, senti però Luca, lì abbiamo degli Stuart, intervistiamo la dura vita dello Stuart. Esatto. Quanto pagano? Da quante ore sei in piedi qui davanti all'ingresso 8? Attenzione, fermati! Fermati! Al ventesimo della ripresa, contropiede perfetto. E ancora Catania! E ancora Catania! Mettiamola lì così, no, vada, non ci puoi credere. Su De Sciglio, da lì Berghessio, eccolo qua, Luca. No, volevo dire che a me, a Marco del gol di Berghessio, interessa relativamente. Ero più preoccupato delle sue condizioni fisiche, perché lui è già in piedi sotto l'acqua da, mi dicevi, 7:15. Dalle 7:15 in piedi sotto l'acqua. Vabbè, sono poi alle le 22. Alle 4:30 arrivano? Ah, hai capito. Senti, ma cosa mangiano? Esatto, hai mangiato qualcosa? Hai un sacchettino nascosto con un panino? Sei completamente a digiuno? Mangi questa notte? Sono a digiuno, mangio appena arrivo a casa. Mezzanotte e mezza. Come gli artisti, cioè, mangi dopo la prestazione. Ma noi siamo degli artisti alla fine, no? Sì, beh, adesso tutti sono artisti. Marco, lo Stuart di San Siro dell'ingresso 8, sì, rivendica lo status di artista della sua categoria. Cioè? E tu dici che sono, gli Stuart sono degli artisti. Perché? Perché ti rivendichi artista, scusa? Perché riesci a far sfollare bene le persone che fossero all'ingresso. Ma certo, e poi ho qualità che molti altri non hanno. Tipo? Per esempio, so indossare bene una pettorina, non tutti sanno bene con una pettorina. Cioè. Ah, ho capito, va bene. Senti, potresti, ecco, è giusto che stia lì sotto la pioggia, se continui a dirci, dare queste risposte. La cosa, perché mi sembra un po' della serie, sai, ho cantato sotto la doccia, sono diventato un artista, vorrei fare l'artista da grande, più o meno, no? Cioè, questo è il passaggio. Senti, ma quanto tanto, li pagano? Cambio, nocerino fuori, Pazzini dentro, per tutti quelli che sono interessati anche al Milan. La cosa che gli interessa dall'inizio a Luca Gattuso, quanto pagano, cioè quanto gli danno per stare lì una giornata a prendere l'acqua? Marco, io come Luca non te la farei mai questa domanda, ma ho un collega in studio, un altro Luca, che vuole farti questa domanda. È di Genova, c'ha le braccine. Quanti soldi prendi per prendere questa sera tanta pioggia a digiuno, tra l'altro? Allora, sono 37,50 €. Però in teoria sono aumentati, quindi adesso sono ben 38. Ah beh. Ah, 38 euro l'ora, spero. No, ma che l'ora? Non l'ora? No. L'ora o tutto il servizio? Tutto il servizio. 38 euro? Ti danno un buono pasto, ti danno 5 euro per il panino? No, niente, solo i soldi e basta. A gettone? 38 euro lì. A gettone, quindi, cioè nel senso che questa è un po' la cifra. Scusa, lui in caso di botte, cose di questo genere, c'ha l'indennità botta? In caso di tafferugli fra tifosi, tu scappi, devi rimanere qui, hai l'assicurazione che ti copre? No, io in teoria non dovrei fare niente, io sono qui per mantenere l'ordine e per il resto ci sono i carabinieri e le forze dell'ordine. Non ne vale la pena, nel senso io prendo 38 euro e non mi certo. Quando iniziano i tafferugli è già in metropolitana. Senti Luca, una cosa, la posizione sfigata, perché quella lì è una posizione sfigata, fuori dallo stadio, è a rotazione, nel senso che poi ogni tanto gli capita di essere eletto fra quelli che vanno dentro e si vede la partita, o sta sempre lì al cancello 8 lui? Allora Marco, il cancellotto è la tua posizione fedele, tu mantieni la posizione di settimana in settimana o giri, per cui a volte sei anche dentro lo stadio, sei all'interno del tornello? No, capita a volte che io sia dentro lo stadio, però generalmente agli ingressi, non per forza l'ingresso 8. Sì, e dopo quante volte riesci a passare di categoria e andare, non so, a vedere la partita sull'anello, fuori dall'anello, su in alto, cioè non so, cioè a vedere qualche, insomma, a vedere Dopo quanto tempo cambi posizione, quando capita? No, decidono tutto loro, io arrivo e loro in posizione. Mano oscura che gestisce, che plagia gli Stuart, decidono tutto loro. Ma lui ha fatto un corso? Con il viso triste Marco ci dà uno scorcio sotto la pioggia di San Siro della triste esistenza degli Stuart. Ma com'è triste? Non diglielo a lui, scusa, della dura esistenza degli Stuart, la dura vita degli Stuart. Però scusa una cosa, lui a che ora smonta lì? Tanto per cominciare tutto qui. Adesso appena escono tutti chiudiamo e poi aspettiamo che scendano i tifosi del Catania. Senti Luca, quando l'afflusso delle persone sarà maggiore sposterete le transenne, quando l'afflusso è maggiore chiudiamo e apriamo i cancelli. Tifosi più antipatici? Qual è la tifoseria più antipatica che hai dovuto gestire all'uscita? Una tifoseria francese, non mi ricordo bene. Marsiglia. Inter Marsiglia mi sembra. Gli non possono vedere gli Stuart col frattino giallo. Non lo so, sono un po' antipatici i francesi. Sì, sì, un po' così, presuntuosi. Senti, anche. Visto che è una persona. È una persona lì, chiedigli se magari c'è un paio di calzini non bagnati. Dai, cioè era il problema di Luca, non ho capito. Luca, tu continua a tenere lì compagnia, noi dobbiamo andare via con il traffico. Ciao. Dai e vai. Strade in diretta. C'è un incidente sul grande raccordo anulare di Roma e si rimane in coda tra Laurentina e Pontina in carreggiata interna. Sul resto della rete la circolazione adesso è scorrevole e sembrano terminati i rientri del fine settimana. Le condizioni meteo però sono incerte, al settentrione continua a piovere sulle regioni di nord-ovest, prestate dunque prudenza. È tutto, ci risentiamo tra mezz'ora. Dai e vai, non è solo calcio. No, era che tenere la coerenza col pezzo di prima. Ah sì, infatti. No, ma è piaciuto perché sono arrivati sms al 349-238-6666 che hanno detto bello rimettilo. No, non fare tanto lo spiritoso perché sennò ti leggo tutti quanti parlano delle nostre musiche, capito? No? Cioè questa, ecco. Attenzione, tra l'altro c'è uno che ci sta dicendo dopo Fazio e la Jalappa si pensava di aver dato modernizzatevi. Cerca di fare un po', non so, almeno un simil Jalappas, no, non mi permetterei mai. Nel frattempo Balotelli si è arrabbiato molto con l'arbitro. Comunque, scusa, volevo dire a quello che ci ha mandato allo 00, che finisce il suo numero con 066, ci sentiamo magari stanotte, ti telefono, così ne parliamo, voglio dire. Allora, solita telefonata dalle 3 alle 4 perché soffri di insonnia. Soffro di insonnia e voglio discutere di questa trasmissione, però sul tardi, non ti preoccupare. Poi pizzettina, roba a casa. Vivilo bene comunque, non è una minaccia. C'è questa, è una certezza. Guarda, si lamentava del servizio di Luca Cancellara. Non, come non dargli torto, devo dire. Come non dargli torto. Quindi ti stai allineando le sue posizioni. No, ma anch'io voglio dire, mi lamento sul fatto che insomma si lamenta dei calzini, ma chi se ne frega dei suoi calzini, tra le altre cose. No, però invece adesso facciamo un vero servizio perché è un'anomalia, nel senso che è il primo atleta ed è un'anomalia. No, diciamo più che un'anomalia, è una modernizzazione di questa disciplina sportiva, quindi veniamo incontro, ci stiamo modernizzando. Sì, però non c'è nella trasmissione che non si modernizza. No, non passa. Ci ho provato, io ci ho provato. Cosa ne farebbe per essere moderni? No, troppo così. Cioè, veramente faccio un po' il giovane. Ma niente, comunque torniamo a noi, parliamo di nuoto sincronizzato. Esatto. Disciplina che allegria. Disciplina che tutti immaginano femminile, soltanto ragazze. Sì, abbiamo visto per esempio il luccichio da parte di Giorgio e di Paolo nell'altra parte del vetro. Esatto. No, su questo tema, cioè il nuoto sincronizzato, quindi tutti quanti abbiamo un'immagine che è quella femminile. Abbiamo in mente sempre queste gambe splendide, esatto, che escono sempre fuori dall'acqua, no? E quindi che ci lasciano sempre un po' così. C'è il singolo, c'è il duo, c'è la gara a squadre, quindi vediamo tutte queste evoluzioni sott'acqua. Desiderio, tra l'altro, a mille di fare l'allenatore di queste squadre. Sì, tra l'altro. Da molte sono allenatrici, però. Però diciamo che c'è a questo punto. Intanto attenzione, perché il Milan, pareggia. Il pazzo, sempre presente, 2-2 a un quarto d'ora dalla fine. Capisci perché c'è bisogno di Balotelli? Ecco, perché c'è bisogno di Balotelli? Perché ha fatto il tiro lui, perché ha fatto un tiro da lontano, dopodiché è andato contro, parato dal nostro portierone, che però è andato contro il palo, poi pazzo, è stato lì, esatto, all'istante. Noi parliamo invece di con Giorgio Minissini, che è il come dire, il primo atleta che fa nuoto sincronizzato. In questo caso, in un mondo di signorine, lui si presenta ed è invece un ragazzone, tra l'altro, perché l'abbiamo visto. Quanti anni hai, Giorgio? 17. Noi ti abbiamo visto le foto, cioè, quello che si diceva una volta, sei un Marco Antonio, sei un armadio due ante, cioè voglio dire che in questo caso, vabbè. Allora Giorgio, parliamo di questa cosa, tu fai nuoto sincronizzato mentre tra l'altro l'Inter, il Milan sta pareggiando, e lo ti interromperemo ovviamente quando appena succederà qualche cosa di interessante in questa partita. Tu hai scelto di fare nuoto sincronizzato, perché? Allora, in pratica, vabbè, io ho la madre che allena una squadra di questo sport, sì, da sempre. E però, cioè, io ho deciso di iniziare quando ho visto per la prima volta Bill May, che è stato un grandissimo di questo sport, che da bambino, quando avevo circa 4 anni, l'ho visto esibirsi e... cioè, ecco, spiegaci... ripeti il nome, aspetta Giorgio, ripeti bene il nome, perché guarda, per noi è, cioè, è un po' oscuro il personaggio. Chi è? Bill May. Bill May, Bill sarebbe Roberto Maggio più o meno, tradotto in italiano. Sì, no, vabbè, adesso devi sempre volgarizzare la cosa. No, è così, cioè, Bill May è Roberto Maggio. Bill May, e lui ti ha folgorato, sì, insomma, perché? Perché si vedeva proprio, cioè, la differenza tra lui e tutte le altre femmine, cioè, non è al stesso nuoto sincronizzato, era proprio un'altra cosa. Si vedeva che lui era uomo, le altre erano donne, quindi sì, faceva proprio un altro effetto. E niente, avendo la possibilità ho deciso di provare questa cosa. Ecco, però spiegaci bene, c'è un altro effetto, nel senso che fai proprio altre cose, cioè in questo caso? Sì, cioè non fai niente di femminile, niente di aggrazia, tutta potenza, tutta forza. Ci credo, non è male, voglio dire, comunque la parte. Poi comunque nel doppio invece fai tutto ciò che possono fare come una donna. Attenzione, invece... fermo. In 3 minuti il pazzo cambia la partita, Milan da pazzi e 3-2, incredibile. Come è il calcio? Attenzione, tutti dall'arbitro, tutti sull'arbitro per il mancato fischio. Tutti dall'arbitro, c'è un mancato fischio, però. Il giocatore Milan del Catania quasi con le mani addosso mentre Galliani festeggia, ma sono tutti. Manca ancora un 15 minuti comunque, però per il momento il gol di pazzo è stato comunque convalidato, giusto? Sì, no, il gol è stato convalidato. Il problema è che c'è stato un intervento nella tre quarti della difensiva del Milan, è finito a terra un giocatore del Catania, non si è rialzato. Mentre il Milan ha fatto il contropiede, i giocatori del Catania indicavano ai giocatori del Milan di buttare fuori la palla, non l'hanno buttata fuori, dopodiché una carambola in aria, è arrivato Pazzini in mezzo all'area, una specie di rigore in movimento, portiere a terra, ha messo la palla in rete, 3-2 per il Milan sul Catania, 33esimo. Giorgio, la dura vita del nuoto sincronizzato, che passerà comunque per un bel po' ancora dietro il calcio, purtroppo, nel bene o nel male. Tutti... è una bella notizia, sono del Milan, quindi. Ah, vabbè, allora sei dei nostri, insomma, vabbè. Sì. Allora, ci stavi dicendo che c'è, secondo te, una supremazia, cioè estetica, in questo caso, della potenza maschile nei confronti della flessuosità e della femminilità del nuoto sincronizzato al femminile, giusto? È quello che stavi cercando di dirci. Sì, cerca proprio di fare un'altra cosa. Cioè, anche negli esercizi in coppia, comunque, si fanno tutte quelle cose che magari due femmine insieme che fanno il tango, no? Sì. Sì, però poi è un po' snaturato. Invece, comunque, un uomo e una donna già fanno altro effetto. Poi puoi fare tutti i temi costruiti come, non so, tipo Aladdin, queste cose. Delle figure, diciamo, della disciplina. Senti, Giorgio, ma tu, essendo il primo, avrai avuto delle difficoltà, nel senso che l'ambiente non avrà accettato all'inizio questa tua scelta, oppure hanno detto sì, va bene, vai, gareggia pure? No, sì, all'inizio il regolamento in realtà non prevedeva che gareggiassimo anche noi maschi. Però poi, vabbè, mia madre, quando io ero piccolo, era questa squadra qui alla Dispoli, era una squadra di 7 maschi. Quindi alla fine è riuscito a far cambiare il regolamento, abbiamo gareggiato anche noi, poi vabbè la squadra si è smontata per una serie di vicende, alla fine sono rimasto solo io. Sì. E non ho alloggiata. Sì. E, no, comunque, c'è anche da parte delle altre società, cioè clima comunque piacevole, sì, ben accetto, cioè non c'è niente di... Sì, vabbè, insomma, ma voglio dire, ma tu adesso gareggi oppure non hai nessuno? Sei, intanto puoi già subito fare un campionato italiano, sei già campione italiano, cioè voglio dire, non sei solo. No, no, magari, no, secondo la classifica comunque rimane... Non viene superata, è comunque mista. Ah, ho capito. È molto facile. Ah, no, attenzione perché intanto vicinissimo il gol anche il Catania, ma non è successo. Di quindi nuovo torniamo con Verghessio. Tranquillizzati, ti ho già agitato, Giorgio, tranquillo. Dai, ti lasciamo poi andare. Senti, ma voglio dire, adesso tu fai, che in questo caso fai il misto, se ho ben capito, giusto? Sì, sì. Ecco, quindi, quindi la prossima, cioè le gare di misto sono ancora, dov'è che le vai a fare? Per esempio la prossima gara di misto dove l'andrai a fare? A Savona, metà giugno ci sono i campionati assoluti italiani, quindi proprio il massimo livello del campionato italiano che c'è. Ecco, senti, le categorie del sincronizzato sono singolo, duo e poi quella squadra. Tu puoi gareggiare in tutte le categorie, cioè puoi gareggiare squadra come squadra da solo, scusa. No, squadre con le altre atlete, però nel singolo immagino che tu non possa gareggiare singolo contro delle ragazze, o sì? No, sì, quello sì, cioè non fa nessuna differenza, ecco. Quello perché non c'è classifica separata, non c'è niente. Ah, quindi è nuoto sincronizzato, maschio e femmine, tutto quanto insieme, tutte via così. Tutto insieme, tutto però. Ah, però. Vabbè, è interessante. No, infatti, ma credo che sia una delle poche discipline che permette una cosa di questo tipo, no? Sì. Anche se lui dice, però, sono due sport, non dico due sport, ma sono due effetti completamente diversi, giusto? No, sì. Sicuramente sono due tipi di sincronizzato diverso, sì. anche però, cioè, è anche normale che non ci sia differenziazione tra maschio e femmine, perché comunque, cioè, al di là di sport magari in cui la forza, cioè, che di base gli uomini hanno di più, viene a vantaggio, nel sincronizzato ci sono delle cose in cui invece noi siamo quasi svantaggiati, certo. Di scioltezza sono svantaggiato, anche se in forza magari sono molto più avvantaggiato, però io in acqua a fondo loro galleggiano e quindi... Devi fare più fatica. Le cose, sì. Cioè, non... Va bene, grazie Giorgio, ti lasciamo andare a vedere questi ultimi minuti della partita del Milan, che comunque sta sostanzialmente adesso traccheggiando verso la fine, dominando comunque, sta tenendo palla. Grazie Giorgio, noi ti seguiremo attentamente e cercheremo di vederti, perché vorremmo vedere questa cosa diversa che finora ci aveva turbato molto di più con le signorine. Ciao, grazie Giorgio. Grazie a voi, ciao. Giorgio Minisini. Giorgio Minisini, il primo atleta italiano che fa nuoto sincronizzato nella categoria normale, quindi insieme alle ragazze. Giorgio Minisini, eccolo. Nella qua. Categoria? Normale, con le ragazze. Cosa c'è la categoria normale? Cioè, non c'è una categoria a parte, è una categoria normale. Sì, tipo? Esatto, tipo Milan 3, Catania 2, al 38esimo il risultato. Che vergogna. È entrato Muntari nel Milan. Quello del 066, sì, cioè, sì. Ha ragione a dire, sì, che certo. Insomma, cioè, abbiamo siamo, già... siamo derby, che palle questa trasmissione, cioè, non sai niente. 38 minuti, 3-2 per il Milan sul Catania, mancano quindi 7 minuti più tutto il recupero. Il Catania ci crede, ma neanche tanto, nel senso che il Milan continua ad attaccare malgrado stia vincendo la partita. Balotelli ha uno sguardo d'odio con qualcuno, anzi quel qualcuno è l'arbitro, perché gli ha fatto segno con l'occhio, come dire guarda, ecco, devi guardare. Almiron con chi se l'è presa prima? Con Verghessio. Ma era incazzatissimo, sì, con era Verghessio. Molto, era molto arrabbiato con Verghessio, non si è capito bene, di sicuro parlavano in spagnolo, perché sono tutte e due tanto che l'arbitro argentini. Per capire quanto erano incazzati tra di loro, l'arbitro ha detto scusate, potreste continuare dopo che intanto iniziamo la partita, perché erano lì perché hanno litigato mentre la palla era ancora a centrocampo, sì. Dopo il gol, no? Esatto. E continua, e Almiron c'è, cioè, proprio si è allontanato, intanto urlava direttamente a Verghessio, posso fare con un altro giocatore del Catania, che ha detto dai basta, su posso fare delle supposizioni destituite da ogni fondamento? No, probabilmente Almiron dice, secondo me, voglio dire, che palle questa trasmissione, sì, è vero. Premio di fondamento. È vero, probabilmente Almiron ce l'aveva su con Verghessio, perché continuava a far segno di chiedere ai giocatori del Milan buttare fuori la palla, invece lui diceva iniziamo a giocare, poi eventualmente protestiamo dopo. Sì, ma perché doveva litigare lì in quel momento? Magari Verghessio si è fermato dicendo buttate fuori la palla. Ma l'altro stava male. Sì, ma dopo Verghessio cosa c'era da dire? Se fosse stato questo il dibattito, cosa c'era da dire Berghese? Berghese diceva no, sì, ma no, di solito si butta fuori. Da cosa c'entra? Non te la devi prendere con me, che no. Io, te la devi prendere, no, con loro, io me la prendo con te, fuori. Perché voglio dire, cioè, se dici queste cose, veramente mi lasci veramente un po' così perplesso da questo punto di vista. Però intanto ricordiamo che cosa c'è? Che gli unici due sport, ci dice Luca da Milano sul 349-238-6666, sono nuoto sincronizzato e l'equitazione. Bravo Luca, che non è né Luca Gattuso né Luca Cancellara. Però Luca Cancellara lo stadio lo sapeva, secondo me. E Luca che Luca da Milano ci scrive da Milano, esatto. In questo caso nuoto sincronizzato e l'equitazione, effettivamente sì, il dressage, sì, i concorsi ippici, sì, hanno perché la... altre cose non ce n'è, no. Auto, eh? Attenzione, Formula 1 c'era una donna, sì, una volta. C'era una donna in Formula 1, sì, ma anche nelle, no, ma anche nelle gare negli Stati Uniti, il campionato kart ci sono, ma per esempio moto, cioè... moto è capitato, è capitato però molto meno della, delle, sì, marche, ma anche i rally, mi ricordo ai tempi Michel, certo, Mouton, la francese Michel Mouton, bravissima, certo, assolutamente, esatto. Nel frattempo punizione per il Milan dalla sinistra, balo, palla in balo, mezzo, attenzione perché sta andando direttamente in porta, ma nulla di fatto. Frison ormai non prende più un pallone, devia tutto giustamente perché sta piovendo, quindi la palla è bagnata. Punizione per il Milan per fallo di Mexès sul Papu Gomez. Frison corre verso la linea laterale e rimette in gioco. Noi invece andiamo alla linea, alla pubblicità. Dai e vai. Scoprire i segreti di Montecitorio, di Palazzo Madama, i meccanismi parlamentari, gli scontri fuori e dentro l'aula, i movimenti civili. Sono Elisabetta Fiorito, sono da sempre la vostra intrusa nei palazzi del potere. Ogni settimana intervisterò un protagonista della vita politica per capire cosa intende fare per migliorare il nostro paese. Vi aspetto il sabato mattina alle 7:45 perché la politica può e deve cambiare l'Italia in meglio. Sei al supermercato e ti serve il bancomat. Invece trovi solo la carta di credito. Dai, che la signora dietro di te ha il gatto che l'aspetta. Su, la cassiera deve vedere le amiche. E c'è pure il papà col bambino affamato. Ma deve essere tutto così complicato? Oppure passi a Fineco. Hai carta di credito e bancomat insieme, con un solo PIN da ricordare. Tutto a zero canone. Semplice. Messaggio pubblicitario. Fogli informativi su fineco.it e presso i nostri promotori finanziari. Chiama l'800-101-101. Fineco, la banca che semplifica la banca. La tua formazione nell'innovazione. Università Campus Biomedico di Roma. Sono aperte le iscrizioni fino al 30 aprile per i test di ammissione ai corsi di laurea in Ingegneria Industriale e Scienze dell'Alimentazione. Le prove si svolgeranno nelle città di Roma, Cagliari, Bari, Lecce, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Cosenza, Potenza e Verona il 6 maggio 2013 alle ore 15. Potrai trovare tutte le informazioni su unicampus.it. Università Campus Biomedico di Roma. Iscriviti subito. Dai e vai, non è solo calcio. If I'm the B.E.G. B.E.G. Yellow Pocahontas. We're the night walk hunters and we don't buy down on nobody's ground. I love to eat them called my Indian ring. The wild squad Tula, wild chapa Tula. Polemica sempre viva, polemica sempre viva. Stiamo parlando quella di Pogba di oggi nel derby, e cioè lui non è che ha polemizzato un po'. No, in realtà ha fatto una dichiarazione al termine della partita dicendo che Meggiorini, l'attaccante del Torino, lo avrebbe insultato con degli insulti razzisti, e quindi questo è quello che ha dichiarato Pogba. In realtà Meggiorini si è difeso dicendo: l'ho insultato, ammetto di averlo insultato, ma certo, non era razzismo. Non pianga, sono cose che nel calcio succedono, questo è quello che ha detto Meggiorini. Poi Ventura, l'allenatore del Torino, ha precisato che sapendo degli insulti ha chiesto a Meggiorini di andare nello spogliatoio a chiedere scusa a Pogba, certo, pare che sia successo. Lui però è andato. C'è cosa, sì, è andato. Il problema è appunto se questo insulto che Meggiorini avrebbe fatto a Pogba, si dice che avrebbe detto brutto nero, c'è scritto nelle notizie che sono circolate. Lui l'ha presa questa cosa del brutto, capito? Gli è andata malissimo questa storia qua del brutto, non è andata giù. Diciamo, a Pogba cosa... dici? Certo, ah, certo. Questa cosa è brutta. brutto a chi? Esatto. Tanto per cominciare. Ma hai visto quanto, tra l'altro è bello, diciamocelo che è bello, cioè voglio, tra l'altro questo è un elemento comunque interessante. Mi piace però Meggiorini che non si accorge neanche quando fa gli insulti razzisti, talmente ormai intraiottato. No, vabbè, lui sostiene che di non probabilmente di non aver detto, la cosa grave sarebbe che brutto nero Meggiorini la considerasse insulto razzista. Infatti. Probabilmente bisogna vedere, ecco. Fatto sta che questa è una cosa di cui sicuramente si discuterà in particolare. Vabbè, noi ne discuteremo poco, abbiamo già finito. Invece ci mette intanto inopinatamente Milan Catania prosegue, sì. Manca un minuto più ancora tutto il recupero. E Catania ci crede, diciamolo che ci crede. Noi andiamo a parlare direttamente invece con un'altra persona di quelle persone che noi, come dire, ci fa un po' spavento per certi versi perché non riusciamo a capire bene il perché delle cose. Io mi fermerei lì, ci fa un po' spavento perché? Poi il problema è capire il perché. Esatto. No, cioè, perché ci fa spavento? Non lo sappiamo. Lui si chiama Marco Berni e andiamo direttamente a lui a chiedergli che cosa ha combinato, perché i chilometri questa volta, sì, cari ascoltatori, sono 1800, 800. Sono in Alaska e sono a piedi. E soprattutto fa freddo. In Alaska un po', sì, vabbè, generale, non essere, cioè, così superficiale. Quanto freddo? Tanto freddo, ci diciamo. Palmice sicuramente fa più caldo. Ecco, sei vago. Marco Berni, quanto freddo? Buonasera a tutti, prima di tutto. Freddo tanto, ossia abbiamo toccato punte di meno 40 gradi. Sì, cioè, certo. Zero, meno 40. Avete toccato, ma in realtà eri solo. Sì, ero solo, ma è una gara, si parte in 50-55 persone, pian piano c'è una lenta scrematura, chiamiamola così, e al traguardo si arriva molto pochi, sempre quest'anno siamo arrivati in 8 al Marco, traguardo. Tu tifi per il Milan, per caso? No. Tu tifi per il calcio, segui il calcio? Ma lo seguo molto poco il calcio. Quindi non te ne frega assolutamente niente che Balotelli sta andando a tirare un rigore, per esempio? No, seguitelo perché ci saranno persone che sono molto più attente. Molto più attente, allora, insomma, in questo caso. Seguiamo il rigore. Seguilo con noi, Marco, tu non ti offendi, no? Tanto assolutamente. Tu... Guarda, ti lasciamo lì un attimino da solo, tanto hai fatto 1800 km da solo, scusa, cioè non è che ti senti poi abbandonato, no? In questo caso, ecco. Fallo di Itzko sull'angolo proprio sinistro, il vertice sinistro dell'area. Balotelli al limite dell'area, l'arbitro sta fischiando, eccolo, sentite il fischio. Balotelli. Parte Balotelli, spiazza ancora una volta Frison, vince il Milan. Si è fermato però, Ma sempre, lui sempre si ferma. L'altra volta si rallentava meno, questa volta ha rallentato tanto. Ma sai perché? Perché c'aveva Frison davanti, mica uno qualunque. Alberto Frison. Ha aspettato dove si è buttato Frison e a quel punto gliela ha messa dall'altra parte, vabbè. Balotelli che non so da quanti rigori non sbaglia il rigore. Credo che sia il 14esimo. Ecco, torniamo da Marco Berni. Tanto ormai a questo punto la partita, diciamo, 4-2 per il Milan, mancano 2 minuti, alla fine diciamo che è terminata. Allora Marco Berni, tu fai questa gara, non è la prima volta che hai fatto questa gara in Alaska, 1800 chilometri. È la mia sesta partecipazione. Sesta? Sì, sesta partecipazione, di cui tre partecipazioni alla gara, chiamiamola lunga, di 1800 chilometri. Ah, perché c'è anche quella breve? Quella di 560 chilometri. Beh, un attimo, scusa, quella lì non scherzo. Cioè, il tempo di metterti un po' su, di metterti un cappottino e sei già arrivato. Non fai in tempo neanche a prendere freddo, Marco, 560 chilometri. Voglio dire. Allora, vediamo un attimo il dato. Allora, tanto vediamo i tempi. 560 chilometri in quanto tempo lo fai tu? Quest'anno ci ho impiegato 28 giorni e 4 ore. Per 560? No, per i 1800. Ah, 1800 tu ci metti un mese, insomma, un 28 giorni. Sì. Ah, conti anche le ore? Le ha contate l'organizzazione. Ah, sì. Tu non volevi però. No, ma vi dico che per me la classifica conta quasi zero, nel senso che lì l'importante è arrivare. E beh, vivo soprattutto, cioè, ma fammi capire, io vorrei fare l'organizzatore di questa gara tutta la vita, perché pronti via, poi dopo 28 giorni mi torno e vi dico, vabbè, allora vediamo chi è che sta arrivando. Hai azzeccato in pieno, perché loro fanno proprio così, non fanno niente. Esatto, non c'è un'organizzazione. Anzi... Loro... Chiami nei vari villaggi, quando sei arrivato nei villaggi chiami l'organizzatore che lui è al caldo a casa sua e dice guarda che io sono qua a Shagalu, capito? Perché tu vai nei villaggi Inuit? Esattamente, sì. Attenzione, grandissimo. Cioè, scusa, ma quando è che iniziano a preoccuparsi se qualcuno non chiama? Ma ti dico, l'anno scorso un italiano era sparito per 3 giorni e loro erano ancora abbastanza tranquilli. I familiari in Italia chiamavano per spingere per attivare i soccorsi e l'hanno trovato sano e salvo fortunatamente dopo 3 giorni, ma ecco, loro si preoccupano molto poco. Senti, è molto interessante, tu hai delle tappe, vai nei vari villaggi Inuit che l'altro sono collegati tra di loro con la radio, immagino, no? Hanno queste scuole che sono abbastanza, diciamo, tecnologiche. Tu arrivi in questa scuola che la individui subito anche se arrivi di notte, perché è l'edificio più bello del villaggio, e corrente elettrica e anche l'accesso al computer. Sono molto tecnologici da quel lato, magari hanno piuttosto danno meno peso alla casa, ma in ogni casa c'è il computer, la televisione, sono molto legati. Ma comunque, scusa, io mi ricordo che i villaggi Inuit sono collegati tutti tra di loro, tra l'altro, no? Ma sono via radio. Via radio assolutamente sì, e dopo ci si sposta in motoslitta, ecco. Però in tanti villaggi la scuola e dei ragazzi che vivono in villaggi piccoli seguono le lezioni scolastiche tramite fonti radio. Stop, fermo lì, non ti muovere, Balotelli sta parlando. Vi ha messo sotto un paio di volte. Non è questo. E pensavate alla Fiorentina che scappava via? Noi dovevamo vincere questa partita e abbiamo fatto degli errori tutti quanti e abbiamo preso 2 gol stupidi. Però siamo stati una grande squadra e Pazzini è entrato molto bene, gli faccio i complimenti. Siamo riusciti a rimontare una partita che era facile, tra parentesi, però l'abbiamo complicata da soli. Senti, da un punto di vista mentale, come state? Riuscite a gestire questa situazione? Oggi era un test anche per quello? No, io non penso che le pressioni arrivano dai giornali. Noi nel nostro ambiente siamo tranquilli, sappiamo i nostri mezzi e pensiamo partita a partita. A proposito di pressioni che vengono da fuori, le parole del presidente su Allegri vi hanno toccato? Siete riusciti a tenerle fuori? Quali parole? Il presidente può dire quello che vuole. Allegri è un grande allenatore e io spero che starà con noi il più possibile. Senti vicino a questa Champions League la possibilità di andare in Champions League? Io penso di sì, poi dobbiamo giocare, sai, il calcio non si sa mai, però speriamo di sì. Ti arrabbi sempre un po' con gli arbitri? Sì, che gli arbitri sono così, è normale che mi arrabbi. Non è normale che io prendo ogni volta 100 falli e non dice niente, e non fischia, anzi mi fischia contro. Attenzione. E poi appena dico una parola mi ammonisce, non è possibile. Mi hanno tirato via una giornata di squalifica, perché forse, non so, però penso che abbiano capito che alla fine non c'entravo niente. Però così non si può giocare, perché io non posso ogni volta che dico mezza parola ammonito e gli altri mi danno 1000 calci e non dice niente, non è possibile. Grazie Mario Balotelli, a voi. Nervoso Balotelli, incazzatissimo. Perché... gli ha detto chi è il presidente, perché forse non lo sa ancora. Sì, vabbè, cose vecchie, insomma, adesso non stiamo lì. Allora, scusa, torniamo a noi, scusa. Abbiamo lo stesso accento comunque. Sì, infatti, è vero. Da questo punto di vista sì, è uguale proprio, da questo punto di vista. No, dicevamo che era una cosa molto interessante, tu dicevi 28 giorni, ma tu quando cammini, quando tu viaggi e viaggi da solo, giorno e notte, qual è il kit del perfetto camminatore dentro in Alaska? Allora, io trascino una slitta che in pratica rimane la mia casa, il guscio della lumaca. Ho una slitta che è del peso di 20-25 kg e lì ho tutto quello che mi può servire per la mia camminata. Io spedisco i viveri lungo il percorso, ecco. Però sulla slitta ho sacco a pelo, fornello per sciogliere la neve, per fare l'acqua, per fare un fatto caldo e tutto. Tutto quello che ti serve nella vita è ridotto in 20-25 kg. Senti Marco, parliamo dei 40 gradi sotto zero, non è come dirlo. No, assolutamente. Poi, cioè, rischio di congelamento, queste cose qua? Nel 2006 ho riportato il congelamento dei 2 pollici, erano nati in necrosi, chiamiamo, e sono riuscito comunque a riportarli ancora sani e salvi. Però il rischio è elevato, perché basta il guanto al momento sbagliato in piena notte o anche di giorno e rischi veramente di conseguenze serie. Ecco, allora Marco, a un certo punto in queste interviste noi arriviamo alla domanda clou. Sì. Prima della domanda clou posso fargliene ancora una? Poi gli fai la domanda, allora, solo una, non dai. Interrompi poi sempre. No, solo una. Ma non è possibile, cioè vabbè, dai. No, è perché c'è una, che hai imparato a parlare, è una curiosità, no, è una curiosità che ho. Cioè, nel momento in cui tu ti muovi e sudi, Sì. E quando ti spogli, cioè con 40 gradi sotto zero, cioè come fai? Ti svelo un segreto. Allora, prima di tutto non mi spoglio quasi mai, non mi cambio mai e non mi lavo mai per un mese. Per mantenere un po' questo alone, questa di calore e tutto. Quindi ecco, devi fare molta attenzione a questi movimenti qua. Siccome non è una è una camminata veloce, ma non è una corsa, tendi a sudare poco, ecco. Quindi è più una passeggiata, diciamola, Marco. Sì, una passeggiata. Anche perché i movimenti sono lenti, no? Sì, viaggi nell'ordine dei 4, 5, 6 km orari, dipende dal terreno. Io sudo a 6 km orari. Cioè, io 6 km orari, cioè arrivo sudo. Al sesto e svengo, cioè scusa, ma... E comunque sudo io a 6 km orari, volevo dirtelo, Marco. Vabbè, ma perché tu... Vai, è il momento della domanda, vai con la domanda. Ecco, vai. Dirti che però è anche il momento. No, ma vai. È troppo tardi. No, vai. Noi ti facciamo la domanda, cioè, a questo punto. Tu ci pensi un attimo. Sono seduto, quindi. Tu ci pensi un attimo su questa domanda. Noi mandiamo il traffico in questo caso, sì. No? E poi dopodiché tu ci rispondi serenamente subito dopo. Quindi tranquillo. Allora, la domanda è molto semplice. La domanda che facciamo a tutti quelli che fanno questi tipi di sport, chiamiamoli sport, o questi tipi di imprese, le chiamerei, no? Ecco, perché fate queste imprese? Ecco, fermati lì, ragionaci, noi andiamo con il traffico. Dai e vai. Perché l'elefante è l'unico animale con la proboscide e ha davvero paura dei topolini? Asciugamano, carta, aria calda. Qual è il modo meno energivoro di asciugarsi le mani? L'acqua andava giù per i canali come facevano 2000 anni fa a studiare la pendenza. Perché in montagna fa più freddo se siamo più vicini al sole? Come mai? Perché? Cosa succede? Qual è che cos'è? Oh, mandateci le vostre domande di scienza e noi vi risponderemo. A Mebius ogni settimana, il sabato alle 20 e la domenica alle 23. Scriveteci. Mebius è @radio24.it. Strade in diretta. C'è un incidente sul grande raccordo anulare, si rimane in coda tra Laurentina e Pontina in carreggiata interna. Prestate attenzione anche sulla A7 Milano-Genova, c'è un incidente in galleria tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione di Milano. Infine, guidate con prudenza, le condizioni meteo sono incerte al settentrione e continua a piovere sulle regioni di nord-ovest. È tutto, ci risentiamo tra mezz'ora. Dai e vai, non è solo calcio. Non ho una canzone Inuit. Questa è a casa ce l'ho però. Però ecco. Non ce l'ho qua. Perché è una grave carenza. È una sarebbe cosa strana. Cioè, una negna. Marco ne conosce una di canzone Inuit. Ecco, ce la facciamo cantare da Marco. Scusa, Marco. Scusa. Allora, tu hai qualche minuto adesso breve per poterci raccontare, anche perché abbiamo pochi minuti. Stiamo andando verso la chiusura. Bene, allora, perché fai tutto ciò? 1800 chilometri da solo in 28 giorni, quindi sono un tot di chilometri al giorno, in 28 70, esatto, 70 chilometri al giorno rischiando, a piedi, rischiando di in mezzo a sotto 40 gradi, in mezzo alla neve, rischiando di tutto. Allora, perché fai questo? Cioè, allora, tutti i giorni trovo una motivazione diversa per andare, per la spiegazione. La prima volta che sono andato era per la banale sfidare te stesso, ma sono andato un attimo per superare tutte le mie paure, se mi sono chiesto se sarei stato in grado di stare da solo, se ero in grado di vincere le paure, quelle atariche, quelle del buio, del lupo, e per dare questa risposta ho dovuto andare là. Ecco Marco, scusami sì, perché sì. Veramente poi noi su questo siamo pure... Ecco, dopo che tu hai, cioè tu ti vieni in mente questa idea, io avrò paura del lupo, non ti sei dato una risposta tipo ma chi se ne frega se ho paura del lupo? No. Sì, tu hai deciso di andare in Alaska per verificare se hai paura del lupo. Ma sai perché? Perché alla fine ho scoperto che l'unica vittima che ha fatto il lupo è stato il Cappuccetto Rosso. Se vai in Alaska a cercare il lupo, cioè, ecco, vabbè, hai paura del buio? Mettiti un attimo dentro una stanza, stai al buio, no? Cioè, in questo caso qua, no? Cioè, e risparmiavo. E risparmiavi, tra l'altro, lo voglio dire. Tu hai uno sponsor, ovviamente, ma sì. Io sono più che altro amici che mi sponsorizzano, che mi aiutano a realizzare i miei sogni. Sì, ecco, cioè, nel senso che tu li stressi talmente che loro ti pagano pur di mandarti via, questo è il concetto. Esattamente, vedi che hai azzeccato pieno la mia... Marco, la prossima impresa, qual è? È stare qua a casa, lavorare, la quotidianità, questa è la più grande impresa. È dura adesso. Assolutamente, qui sono sottoposto a questo qua. E la normalità ti ammazza, diciamocelo chiaramente. È vero, a tutti, la quotidianità, la normalità è la vera impresa di tutti, quindi sì. Quando mi chiamano eroe, campione, così veramente mi viene da vergognarmi assolutamente, perché... Gli eroi e i campioni sono veramente alti. Lì ti distrai, vai in giro, incontri gente non tanta perché sei solo, però voglio dire, la ritengo una vacanza, quindi sì. Ecco, senti, ma 1800 km quanto tempo ci metti poi a riprenderti? Adesso guarda, è un mese che sono a casa, ho fatto il primo allenamento quest'oggi in bicicletta, ma parecchio tempo ci vogliono, perché quest'anno poi ho avuto grossi problemi ai piedi con vesciche. Quindi Marco, con te è facile dire un uomo solo al comando, sarai andato in giro in bicicletta da solo, immagino. No, con mia moglie. Vabbè, che ti sopporta, voglio dire. Assolutamente. Però ha delle lunghe pause, insomma, e quindi è contenta. Descrivici in due parole proprio la prima doccia. È uno spettacolo, spettacolo, perché c'è stato in un arrivo, sono arrivato a Noma a 35 gradi sotto zero, non sapevo dove andare in piena notte, mi sono nascosto in un bancomat. Dopo 5 minuti è arrivato la polizia, perché le telecamere sono anche lì, ha aperto la porta del bancomat e ha dovuto richiudere subito perché c'era un odore. Sì, immagino. Sì. E comunque diciamo, tua moglie non ti accetta in casa se non ti fai la doccia, diciamo. Assolutamente. Grazie Marco, è stato un piacere. Voi, gentilissimi, grazie a voi. Grazie, a presto. Ciao. È difficile. Cosa? 1800 km? No, quello che facciamo adesso. Torniamo al calcio, cari ascoltatori. Torniamo al calcio e dobbiamo trattare un tema difficile di questa serata. E dobbiamo trattare ovviamente Alberto Frison, il portiere del Catania, che ha preso ben, come si dice, gergo tecnico, quattro papine. Diciamo, quattro pere via andare. Esatto, sapevo quattro pere più che quattro papine. Papine, fa lo stesso. Ne parliamo però con il portavoce dell'Alberto Frison Fan Club, che è partito oggi stamattina pieno di speranze dal Veneto, non so bene da dove. Esatto, da Scorzè, dalla zona di Scorzè, Treviso, quella zona. Pieno di speranze per stare a fianco ad Alberto Frison, che per la prima volta, no, ci entrava dentro la scala. Esatto. E quindi poteva tranquillamente l'esordio in Serie A di Frison, perché Andujar era squalificato, portiere del Catania, è entrato e partito bene. In realtà la partita l'ha fatta bene, perché ha fatto molte parate importanti, molte parate difficili, però alla fine 4 gol. Davide, pronto? Sì, buonasera agli ascoltatori. Sei triste? Triste, dite no, è stato un po' un tiro al bersaglio. Sì. Alberto, secondo me, ha fatto bene. Però fatto lui ha fatto veramente delle belle parate, Sì, ha fatto dei bei numeri. Cioè? Quello che ha parato il parabile, insomma. Sì, poi sì. Poi sai, anche qualcosa di imparabile ho visto nel primo tempo. Sì, ma tu comunque, poi è uscita la forza del Milan. Ma voi lì adesso come tenterete di tenerlo su di morale? Voi l'avete già sentito? No, ma lo rivedremo dopo sicuramente. Sì, perché adesso dove state andando? Adesso andiamo verso il pullman, stiamo uscendo dallo stadio. Ah, vi stanno già facendo uscire, presto? Sì. Tutto tranquillo? Sì, è tutto tranquillo. Diciamo che ci si aspettava un esordio un po' diverso, una bella prestazione, però non così tanti gol. Non è che mi si deprime, anche perché deve farne altre di partite. Andujar è stato squalificato per 3 giornate, giusto? Sì, deve farne altre 2 sicuramente. La prossima in casa con il Siena e poi una trasferta a Genova con la Sampdoria. Senti Davide, tu che eri allo stadio, hai sentito quei cori abbastanza tristi dedicati ai carabinieri e a Zanetti? Da parte della curva? Sinceramente non ci ho fatto caso. Ah, non li hai sentiti. Vabbè, meno male, quindi erano molto bassi. Grazie, buon ritorno, mi raccomando. Grazie mille. Ciao, ciao. Oh, salutaci Alberto, Senz'altro. Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Chissà se andranno anche a Genova, ma probabilmente sì. Chi? No, loro, perché... Cioè, vuoi incontrarli a Genova? No, perché la prossima partita il Catania la giocherà, come abbiamo ascoltato, in casa con Siena, un po' più complicato, però poi ci sarà Sampdoria a Catania, quindi magari andranno a sostenerlo anche in quel di Genova. Donne al tiro piattello, donne e uomini gareggiano insieme? No, non gareggiano insieme, però noi ci abbiamo intanto Allegri, che è qui spensierato e allegro, come sempre. Ha fatto un'ottima partita, credo che già nella prima mezz'ora, nei primi 20 minuti, se avessimo avuto un po' più di lucidità nelle scelte dell'ultimo passaggio, credo che la partita forse si sarebbe messa in modo diverso in discesa. Pazzini è un giocatore straordinario, perché... Dimmi cosa ha detto Giuseppe Rossi? Ha twittato. Giuseppe Rossi è uno che utilizza molto Twitter, e pochi istanti fa... Giuseppe Rossi, americano, esatto, ha twittato semplicemente una frase di tre parole: partita molto strana. Punto. Strana. Partita molto strana. E basta? No, basta, solo quello. Poi ovviamente sono intervenuti dei giornalisti, qualcuno che gli ha chiesto: ma strano in che senso? Cosa vuoi dire? Esatto, però lui non si è ancora pronunciato. Ha detto partita molto, molto strana. Noi per il momento diamo soltanto questa notizia, ormai ci si avvinchia a Twitter quando non ci abbiamo niente da dire in questo caso. Vabbè, soltanto questo, poi Roberto Renga, che è un giornalista, gli ha scritto: non ti convince. Massimo Lopez Pegna, che della Gazzetta, dice: lasciamo stare il fair play del Milan, dovremmo discutere sul fallo all'attaccante del Catania, eccetera eccetera. No, ringrazio i tifosi che me l'hanno fatto e che credo che guardano quello che ho fatto in questi tre anni di Milan. Detto fra di noi, ci lamentavamo di Conte al terzo posto, no? Oggi pomeriggio dopo che aveva vinto il derby 2-0, Conte è arrivato all'intervista un po' triste dopo le prime otto partite, era tristissimo, e Allegri invece anche lui, c'era un momento... No, non, io non commento mai quello che dice il presidente e quello che viene scritto sui giornali. Sì. Io sono contento di essere al Milan, faccio il mio lavoro nel migliore dei modi. Vabbè, ma è così, Allegri. Questi anni di averlo fatto, magari qualche volta sbagliato, continuerò a sbagliare. Dai, non è possibile, possono anche dire qualcos'altro, scusa. Luca, salvaci tu! Pronto Luca? Per fortuna è il meteo che salva me, perché qui ha smesso di piovere, anche se non è ancora passato nessuno del quartiere San Siro di Milano a lasciarmi. Hai giusto un minuto e mezzo per dire delle cose particolarmente brillanti. Allora, facciamo parlare direttamente ai tifosi. Ciao, siamo in diretta su Radio 24, ti è piaciuta la prestazione dei ragazzi? Sì, grande Milan, grandi ragazzi. Allegri? Allegri può dormire sulle tranquille, può rimanere allenatore del Milan per ora. Ecco. Se tu potessi sognare un altro nome come mister, un ex senatore, Seedorf, Costa Curta, lei vorrebbe l'allenatore del Bayern. Ah, quindi tu dici: andiamo direttamente in alto, andiamo a prenderci il Milan, che costa un po' troppo. Ecco, subito. Vabbè, poi? Frison, come giusti la prestazione, l'esordio in Serie A del povero portiere del Catania? Ma che modo? Beh, no, ha fatto parate importanti. Ma dai! Il 7 in pagella se lo meriterebbe. Ma chi è, scusa? È un allenatore questo. Ma che partita hai visto? No, così dato per... No dai, qualche parata importante l'ha fatta, ha salvato il risultato... parecchie volte. Ecco Luca, è l'unico tifoso che ti è rimasto lì a fianco che parla con te? No. Adesso andiamo da qualcun altro. Buonasera ragazzi, siamo in diretta su Radio 24. Parla con me. Giudichi la prestazione del Milan questa sera? Allora, io sono interista, quindi Luca, ti sfumo lentamente, ti faccio andare via anche perché sta finendo tutto quanto. Ringraziamo ovviamente Paolo Corleone, ringraziamo te Giorgio De Luca. Ciao ciao, ci risentiamo ovviamente domenica prossima, sempre alla stessa ora, sempre su Radio 24. Dai vai, non è solo calcio, è tante altre cose insieme, e ascoltatelo qui direttamente. Ciao Luca Gattuso. Ciao Sergio Ferentino. Ho Ho scritto un libro sulla mia vita da padre di Tommy, mio figlio autistico di 15 anni. Vorrei realizzare il sogno di una città costruita a misura di tutti i ragazzi speciali come lui, perché gli autistici hanno diritto ad essere felici, ma per questo devono esserlo anche le loro famiglie, a cui di solito nessuno pensa. Sul sito di Radio 24 ora c'è anche uno spazio dedicato ai genitori dei ragazzi autistici. Segui nel blog di Gianluca Nicoletti l'idea di una città felice per chi continuerà ad essere autistico per tutta la vita. www.radio24.it. Forse stasera è meglio evitare. E se succede di nuovo, lei ci rimarrebbe male, sarebbe delusa. Sì, sì, è meglio lasciar stare. Sembra triste, depresso. C'è quel problema. Ma perché questo silenzio? Dovremmo parlarne, cercare una soluzione, trovare il tempo giusto per noi. L'eiaculazione precoce è la più comune disfunzione sessuale maschile. Vai su radio24.it nella sezione Il tempo giusto per noi e scopri tutti gli approfondimenti. Oggi parliamo a voi podisti moderni per ricordarvi che quando correte, cioè sempre lungo ameni viali alberati o postmoderne arterie stradali o su tecnologici tapis roulant, ma dovete cercare qualcosa, è il momento di 89 24 24, per cercare senza smettere di fare. Info e costi 89 24 24.it. Sa essere una compagna, un'amica, una confidente e sa stare sempre con te. Radio 24 è dove sei tu. Scarica le applicazioni per iPhone, Nokia, BlackBerry, diventa fan su Facebook, seguila su Twitter e avrai in ogni istante le anticipazioni e i contenuti della tua compagna preferita. Radio